Italia in controluce. Buongiorno a tutti, oggi è l'8 maggio ed è la nave contro la torre del porto di Genova, è dedicata alla trasmissione di oggi. 349-238-6666 i vostri sms. La torre di controllo che è stata abbattuta da una porta container che ha speronato il grattacielo di cemento e vetro alto, pensate, 54 metri. La nave Jolly Nero, Jolly, che ricorda anche vecchie vicende di trasporto di rifiuti tossiconocivi, ma in questo caso non c'entrano. Jolly Nero della linea Messina stava uscendo dal porto accompagnata da una pilotina, una piccola imbarcazione che segue normalmente i mercantili quando manovrano nello scalo. Uno dei motori si deve essere bloccato improvvisamente, costringendo la nave a sbandare verso terra. Così la parte di poppa del mercantile ha urtato violentemente contro la torre dei piloti e si è abbattuta su una palazzina vicina, sbriciolandosi praticamente in tonnellate di detriti. Un bilancio pesantissimo, 7 morti. Io vi chiedo se secondo voi, visto che ci si interroga sulla sicurezza nei porti, sulle regole che dovrebbero governare le manovre delle navi, se secondo voi c'è sicurezza nei porti italiani, anche a vostra memoria di fatti accaduti anche per piccole imbarcazioni, oppure quello che è accaduto a Genova è frutto di un mero caso. 349-238-6666, io mi collego subito con Andrea Ferro, che ha fatto un ottimo lavoro fino dalle primissime ore di questa mattina, il nostro corrispondente da Genova. Allora, cerchiamo di capire e di comprendere che cosa è accaduto, se ci sono anche delle risultanze di perizie. In questo momento è ancora presto. Sì, Daniele, buongiorno da Genova. No, la situazione sotto questo profilo è ancora prematura, chiaramente non ci è dato sapere se c'è già un rilievo a livello di riprese o di video per stabilire in qualche modo una ricostruzione che tracci esattamente il percorso e soprattutto un elemento molto importante nella ricostruzione, la velocità con la quale la nave stava procedendo con i motori indietro. E chiaramente dal tipo di ricostruzione pare che la velocità, dal tipo di ricostruzione alla luce poi delle conseguenze, la velocità sarebbe stata un po' più sostenuta del solito. Questa, ripeto, è una ipotesi che sta serpeggiando in maniera abbastanza convincente negli ultimi minuti. In sostanza la nave avrebbe, per risparmiare tempo, per arrivare nella zona della manovra il prima possibile, avrebbe portato i motori indietro a una certa velocità, poi nel momento in cui si trattava, raddrizzando lo scafo, di portarli avanti per poi uscire con la prua dal canale di Levante, dal canale di calma di uscita del porto di Levante, evidentemente in questo momento i motori non hanno risposto ai comandi e l'urto contro la banchina è stato devastante e la parte, diciamo così, superiore della nave dove ci sono i container è andata a sbattere contro quella che era la torre di controllo del porto, alta 52 metri, edificata nel 1996, in qualche modo un simbolo moderno del porto accanto a quello storico che è la lanterna. Poco fa, lo abbiamo detto nel GR delle 13, un ufficiale dei Vigili del Fuoco ci ha detto che praticamente la torre è stata abbattuta come spezzata e scaraventata in mare come fosse un grissino. Potete immaginare quindi la violenza dell'impatto. Ti fermo un attimo perché nel frattempo leggo, sono arrivati gli sms. Vorrei riformulare bene la domanda perché alcuni ascoltatori non hanno ben capito. Non vi chiedo un parere su ciò che è accaduto a Genova, vi ho chiesto un parere sulla sicurezza nei porti italiani, alla base anche di ciò che voi aveste vissuto, avete visto, se avete una barca, se siete stati sicuramente al mare, avete visto all'interno dei porti situazioni di poca sicurezza, di questo stiamo parlando, cioè per alcuni ascoltatori è, per esempio uno dice dall'esterno sembra una coincidenza, un altro dice sicuramente è ovvio, ci sono questi ascoltatori che sanno tutto, è ovvio, è un mero caso, e poi un disastro, un errore, non facciamo i soliti processi preventivi, e chi fa i processi preventivi? Andrea da Varese, il fatto che viviamo come uno straniamento, individualmente siamo attenti e scrupolosi nella vita associata superficiale e poco attenti, dice Maria Rosaria. Bisognerebbe sempre prevedere il peggio, solo così si evitano le disgrazie, invece c'è moltissima, troppa superficialità. Sergio dice: in un paese che a rete ha visto ad occhio come risultato genera anche incidenti tipo quello di Genova. C'è un fatto, io questa mattina, Andrea, quando ho visto la parola jolly mi era venuto i capelli praticamente viola, e poi mi hanno raccontato che si tratta di un'altra, cioè dello stesso armatore di certe jolly, tipo il jolly rosso eccetera, ma che nulla avevano a che vedere. Che cosa trasportava questa jolly nero? Ma trasportava container all'interno del quale c'era merce varia ed era partita pochi minuti prima dell'incidente, aveva come si dice letteralmente staccato dal molo poco prima delle 23, la prima tappa di questo viaggio era il porto di Napoli e poi successivamente sarebbe recata in Medio Oriente. Le jolly, come tu accennavi, facendo riferimento anche ai nomi di altre navi andate alla ribalta della cronaca per altri episodi, sono della compagnia di navigazione Messina, sono circa 15 navi che trasportano un po' di tutto in giro per il mondo. Questa nave era stata varata nel 1976, ripeto, aveva appena staccato dal porto commerciale di San Pier d'Arena e dopo la manovra, che poi ha avuto un esito tragico, avrebbe dovuto far rotta verso Napoli. Un altro ascoltatore, Romano da Ravenna, dice: è possibile che una costruzione debba essere costruita a distanza zero? Nei porti sicuri le navi sono a rimorchio, queste le normali basi di sicurezza, dice Romano da Ravenna. Era la torre costruita nel punto a rischio, ma la torre deve stare per forza a tiro di nave per funzionare bene, dice un altro ascoltatore insieme a Cese. I porti italiani sono super sicuri, ecco queste certezze, diciamo, quasi bibliche, ci sono più morti sulle strade, se facciamo una proporzione sono molti più sicuri i porti, dice Andrea Valori dalla città di Castello. Quello che più preoccupa è che la verità viene fuori sempre dopo molto tempo, cioè quando ormai si è dimenticato il fatto, dice Fabio. L'uomo si illude di poter controllare tutto, ma a volte irrompe l'imprevisto. Sbaglia chi pensa la tecnica pure voluta ci risparmi dall'incidente, dice Roberta. Questi sono sicurezza nei porti italiani, ma siamo in Italia, che sicurezza? Paghi tutto e corrompi e sei praticamente a posto. I porti italiani sono super sicuri, un altro ascoltatore. Venite a Venezia sabato e domenica col bacino San Marco intasato dalle maxi navi in transito col perenne rischio di incidente. Sa che cosa succede a Venezia se la nave si schianta in un bacino? Una strage, dice Roberta, tornata in Veneto. Un problema inopinabile è l'approssimazione italiana in genere, questo è un altro ascoltatore. Avete fatto alla faccia del paese di navigatori Schettino, Moby Prince e adesso questo. Vergogna, vergogna, vergogna. Maurizio, 349-238-6666. Bene, io ringrazio Andrea Ferro per il suo intervento e per il suo lavoro. Vi ricordo tutti i giorni Italia in Controluce alla stessa ora. Vi ricordo che avete la possibilità anche di intervenire e di scrivere su Facebook, sulla pagina e sul gruppo, anche su Twitter e sulla nostra email che è controluce@radio24.it.